Letture di Radio 24. Compie 70 anni Muhammad Ali, il più grande pugile della storia. Sulle pagine del domenicale del Sole 24 Ore, Piero May ripercorre la lunga carriera di Cassius Clay, iniziata con la controversa vittoria alle Olimpiadi di Roma del 1960. C'è una medaglia d'oro di Roma 60 sul fondo del fiume Ohio, dalle parti della città di Louisville, Kentucky. Se la corrente non l'ha portata più giù verso Cairo, dove l'Ohio si tuffa nel Mississippi. O forse il Mississippi e i suoi battelli a ruota l'hanno trascinata fino a New Orleans e oltre, nell'Oceano Atlantico. Gli 8.000 metri cubi d'acqua al secondo che l'Ohio fornisce al fiume più lungo del mondo possono aver trascinato anche quel piccolo detrito e averne rosicchiato quel po' d'oro che la faceva luccicare. Che fiume, l'Ohio! Alexis de Tocqueville, nel libro La democrazia in America, l'aveva raccontato così. Il fiume Ohio segna la frontiera di due vasti stati. Questi due stati differiscono solo in un punto. Il Kentucky ha ammesso gli schiavi, l'Ohio li ha tutti respinti da sé. Il viaggiatore che, navigando l'Ohio, si lascia trasportare dalla corrente, naviga dunque fra libertà e schiavitù e può quindi vedere facilmente quale delle due sia più giovevole all'umanità. Sulla riva a sinistra del fiume la popolazione è rada. Di tanto in tanto si vede una forma di schiavi che percorre con aria negligente campi semideserti e la foresta primitiva compare continuamente. Dalla riva destra, invece, si alza un rumore confuso che proclama da lontano la presenza dell'industria. Ricche messi coprono i campi, eleganti dimore annunciano il gusto e le cure del lavoratore. L'uomo sembra ricco e contento e lavora. Sulla riva a sinistra dell'Ohio il lavoro si confonde con l'idea della schiavitù, sulla riva destra con quella del benessere e del progresso. Là è degradato, qui viene onorato. La medaglia l'ha buttata a Cassius Clay quando ancora non si era ribattezzato Muhammad Ali. Si trovava dalla parte sbagliata del fiume, nel Kentucky, il paese dove l'erba è blu. Lui, che aveva difeso l'America a pugni e colpi di lingua che facevano male anche più dei suoi cazzotti. Lo avrebbero chiamato il labbro di Louisville. Era tornato in America da vincitore dei giochi. Provò ad entrare in un ristorante di Louisville. Sono Cassius Clay, campione olimpico, e anche se lì c'è scritto White People Only, riservato ai bianchi, non mi cacceranno, si disse. Lo cacciarono. Fu allora che pensò quel che Tommy Jet Smith avrebbe dichiarato 8 anni dopo, quando volò tra le nuvole di Città del Messico, oggetto identificato, e prese a pugni lo smog. Quando vinciamo o facciamo qualcosa di buono, siamo americani. Altrimenti, restiamo negri. Vecchia America. Michael Jackson canticchiava, Barack Obama era un bambino. Al tempo in cui Tommy Jet pensava e diceva questo, Cassius Clay, che ormai era Muhammad Ali, era renitente alla leva. Aveva rifiutato di servire la patria. Quale patria? Nelle paludi del Vietnam. Non ho niente contro i Vietcong, aveva detto, e quelli non mi hanno nemmeno mai chiamato negro. Cassius Clay cominciò a tirare di box per caso. Da bambino, cercando la bici che gli era stata rubata, finì in una palestra e salì sul ring. Ci sarebbe salito da professionista 61 volte, vincendo 56. Sarebbe stato campione del mondo dei pesi massimi, cioè il massimo dei campioni della box, dal 1964 al 67, dal 1974 al 78 e, per un'ultima breve parentesi, ancora nel 1978. Fu protagonista di incontri che hanno fatto la storia del pugilato, come il match di Kinshasa contro George Foreman o come il Trilla in Manila, il terzo match contro Joe Frazier. La figlia di Ali, Laila, è stata campione del mondo dei supermedi e si è ritirata imbattuta in 24 incontri, con 21 KO. Muhammad Ali ha acceso il braciere olimpico ad Atlanta 1996. La sua mano tremante per il morbo di Parkinson ha emozionato il mondo. È nato il 17 gennaio 1942. Questo martedì compirà 70 anni. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Piero May dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. Un'indagine di Coldiretti rivela che nel passaggio dai campi alla tavola i prezzi di frutta e verdura arrivano anche a triplicare. Colpa della mafia, che controlla le reti distributive e la logistica. Tra gli indagati anche il fratello di Totò Riina e Nicola Schiavone, il figlio di Sandokan. Giro d'affari miliardario e prezzi al consumo alle stelle sono i due tratti che spiegano tutto della presenza della criminalità organizzata nelle campagne e nelle attività di trasporto degli alimenti. Dati allarmanti che indicano in 12,5 miliardi di euro il volume d'affari delle agromafie, ovvero delle attività della criminalità organizzata nel solo settore agroalimentare. Un'attività fiorente che genera danni enormi sui produttori e sui consumatori. Basta pensare che i prezzi della frutta e verdura triplicano dal campo alla tavola per effetto delle infiltrazioni criminali nelle attività di autotrasporto. Non si tratta quindi solo più di furti di attrezzature, mezzi agricoli e abigeato. La criminalità nell'agroalimentare lavora ormai soprattutto con il racket e le estorsioni, oltre che attraverso una vera colonizzazione delle reti commerciali alimentari, con l'imposizione di manodopera e di servizi di trasporto. Senza dimenticare il danneggiamento delle coltivazioni, le aggressioni, l'usura, le macellazioni clandestine, le truffe nei confronti dell'Unione Europea e il caporalato. Certamente, però, l'effetto più evidente è quello della lievitazione dei prezzi. Si tratta, spiega la Coldiretti in una nota, di uno degli effetti della presenza della criminalità organizzata nel settore alimentare, in un paese dove oltre l'86% dei trasporti avviene su gomma e la logistica incide per quasi un terzo sui costi di frutta e verdura. Una situazione che ormai spesso conquista anche le luci della cronaca con operazioni di polizia importanti. Basta pensare alla scoperta, nello scorso novembre, di un'asse camorra mafia per controllare il mercato dell'ortofrutta e i trasporti su gomma in grande parte del centro-sud. In questo caso, secondo i magistrati, è stata scoperta l'esistenza di una spartizione di affari tra le organizzazioni e di un monopolio dei trasporti su gomma dei casalesi, che gestivano i trasporti ortofrutticoli da e per il centro-sud, Palermo, Trapani, Gela, Catania e Fondi. Un'alleanza fondata su reciproci interessi economici, che, hanno spiegato le indagini, influenzava l'economia del settore e i prezzi dei singoli prodotti, impedendo il libero mercato. Tra gli indagati anche Gaetano Riina, fratello di Totò, e Nicola Schiavone, figlio di Sandokan, intervenuti anche in prima persona per garantire gli equilibri e per riaffermare le proprie posizioni dominanti. Le agromafie, commenta quindi la Coldiretti, investono i loro ricchi proventi in larga parte in attività agricole, nel settore della trasformazione alimentare, commerciale e nella grande distribuzione. Una strategia che ha come corollario il condizionamento della libera iniziativa economica e la concorrenza sleale. E a rischio ci sono anche la qualità e sicurezza alimentari, messe in crisi da alimenti che arrivano sulle nostre tavole come genuini e italiani, ma che in realtà sono ottenuti con materie prime di bassa qualità in catene produttive fuori controllo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Andrea Zaghi, I prezzi della frutta triplicati causa mafia, dall'Avvenire dell'11 gennaio. Forse non sarà vero che i gatti hanno 7 vite, ma dall'America arriva la storia di una gattina che di vite ne ha avute almeno 3. Siamo negli Stati Uniti, a West Valley City, Utah, dove per i gatti randagi vige una legge davvero severissima. Se un gatto di strada viene infatti catturato e dentro 30 giorni nessuno l'ha adottato, il poveretto viene condannato a morte. Esattamente ciò che è successo alla gattina Andrea, che il personale della municipalità addetto alle esecuzioni ha tentato per 2 volte e invano di sopprimere. Niente da fare. Andrea, miracolosamente sopravvissuta al primo tentativo, è stata messa nuovamente nella camera a gas e la seconda volta sembrava veramente morta. Tant'è che l'avevano già sistemata in una busta di plastica, ma appena prima di finire cremata si scoprì che la gattina era ancora viva, pur essendo in ipotermia e avendo vomitato il vomitabile. E a questo punto, fine delle disgrazie, perché ora arriva il lieto fine. Arriva cioè Janita Coombs, una volontaria della comunità per animali di Salt Lake City, che chiede di adottarla. È un gatto piuttosto robusto, come sapete bene, e ha una gran voglia di vivere, dichiara Janita al quotidiano locale, il Salt Lake Tribune, che pure riporta che le autorità stanno cercando di determinare come l'animale abbia fatto a sopravvivere per 2 volte alla camera a gas. Davvero coscienziose queste autorità. E se si facessero invece qualche domanda un po' più partecipe e misericordiosa sulla sorte dei loro felini di strada? Speriamo che prima o poi qualcuno lo faccia. Esistono infatti modi decisamente meno radicali e soprattutto meno crudeli per gestire le colonie feline della città. Noi in Italia lo sappiamo bene, se non altro perché almeno qualche esempio positivo ce l'abbiamo. Penso alle colonie dei condomini milanesi ora legalizzate e di cui il Corriere ha recentemente dato notizia, ad alcune ben gestite nella città di Roma e a quelle storiche che, si spera, torneranno presto a prosperare nei campielli veneziani. Più gatti e meno pantegane, cioè ratti, saggiamente si diceva. Quanto alla straordinaria vitalità dei gatti, cioè alle loro 7 vite, secondo la numerologia, che certo non è una scienza, quel fatidico numero sarebbe ritenuto la perfezione essendo la somma di 3, simboleggiante il divino, e di 4, che indicherebbe ciò che attiene al mondo. Il numero quindi ritenuto della completezza. C'è anche da ricordare però che nel Regno Unito si suole dire che il gatto ha 9 vite, e in questo caso la confusione tra il 9 e il 7 deriverebbe dal cosiddetto gatto a 9 code, che come tutti sanno non è un animale, ma il nome di un antico strumento di tortura usato già ai tempi degli antichi romani nella flagellazione. Era costituito da 9 stringhe di cuoio, alle cui estremità si trovavano artigli metallici che abbastanza realisticamente richiamavano le unghie dei felini. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Danilo Mainardi, Andrea, la gattina che visse 3 volte dopo l'eutanasia, dal Corriere della Sera del 5 gennaio.